Backstage Bash. Il rock and roll come nessuno ve l'ha mai raccontato. Aloha. Sono Chuck Bird e questo è Backstage Pass, storie di rock and roll che non troverete nelle biografie ufficiali che le rockstar non raccontano durante le interviste. Ehi, ma vi rendete conto di quanto sia cambiato il comportamento in pubblico delle rockstar? A parte gli eccessi di uno o due personaggi, vedi Pete Doherty e Amy Winehouse, gli artisti fanno a gara per mostrarsi sempre in splendida forma, tutti affetti da eccessi salutistici. Anche le paglie, le normali sigarette, oggi come oggi sono piuttosto mal viste. Nel cinema non si fuma più da secoli, negli uffici è vietato e nei bar bisogna fare domanda in carta bollata solo per poter portare un pacchetto in tasca. Pensate che in America vi proibiscono di fumare anche appena fuori dalla porta del locale, almeno 15 metri, dicono alcune leggi locali. Eppure la paglia è un elemento imprescindibile nell'immaginario rock and roll. Mi viene in mente il vecchio David Bowie che durante il suo periodo da Duca Bianco, quello attorno all'album Station to Station, usava salire sul palco con il suo bravo completo nero e una gitane perennemente accesa all'angolo della bocca. La cosa divertente è che questo vezzo, questo suo crearsi un personaggio tutto fumoso, portò il povero David ad essere totalmente dipendente dalla nicotina. Beh, pensate che alla fine del tour promozionale ne fumava non meno di 2 pacchetti al giorno. Just